nostro sogno è avere un condominio di oggettine. Parenzo è il primo ad avere questa ambizione. Lo sappiamo che è così. Noi che non siamo religiosi lo diciamo apertamente. Lui, essendo religioso, non lo dice, ma lo pensa come noi. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Sì, qui abbiamo raggiunto il top oggi, caro Parenzo, perché ci sono parlamentari della Repubblica, ma sì, anche europarlamentari, sì, che dopo la partita di ieri, Juventus-Roma, con tutte le polemiche, gli scandali, so che non capisci niente di calcio, Parenzo, però per un giorno ti devi un po' adattare a questa letto, cosa. No, ho letto. Bene, anche tu hai letto, perché non si tratta solo di fenomeni calcistici, si tratta di fenomeni che riguardano, come dire, l'Italia profonda, l'Italia che tifa. Beh, l'economia anche, non solo l'Italia. Beh, l'economia, insomma, non esageriamo, perché allora c'è un deputato del Partito Democratico, ma anche un deputato di Fratelli d'Italia, che ha presentato un'interrogazione parlamentare, ma l'ha presentata al Ministro dell'Economia perché pensa, perché pensa che l'irregolarità, gli sbagli, ovviamente sono tutti tifosi della Roma, gli sbagli dell'arbitro ieri possano mettere in difficoltà l'Italia, perché dicono questi signori che poi gli stranieri non vengono ad investire nel nostro paese. E secondo me ha ragione. Vabbè, ma tu sei un cretino totale. Poi ti spiego, cioè, per quando secondo vuoi. Te ha ragione questo signore. E purtroppo signor... devo dar ragione anche al signor Buonanno questa volta, e te lo giuro che sto male. Che sì, attira in ballo la Commissione Europea. Cioè, proprio su questa vicenda. Ah sì, perché ha fatto un'interrogazione anche lì, arbitri internazionali. Quando vuoi battaglio su questo. Propone arbitri internazionali, Buonanno, tu sei d'accordo? Vabbè, adesso che proponga arbitri internazionali è una buttad. Per chi partite venga coinvolta... di cartello. Allora, la Juve e la Roma sono due società quotate in borsa. E allora? Quindi vanno trattate come delle aziende, sono delle industrie, non sono soltanto 11 uomini in mutande che scorrazzano per un campo di calcio. Quindi è chiaro che l'interesse attorno a quello che è successo, è ovvio che la politica deve capire se lì c'è stato un imbroglio, se c'è stato addirittura se il titolo in borsa può la andare. Politica deve, cioè, è giusto la fare credibilità del paese, sì, assolutamente. Ed è come fosse un'industria qualunque, un'azienda qualunque. Ma tu l'azienda sei malato. L'industria del calcio è un... Sentiamo Totti, ho capito perfettamente, no? Sentiamo Totti. È un'industria o no? Sentiamo Totti, perché tu sei a questo livello qui. Finché ci sarà la Juve arriveremo sempre secondi, questo l'ho detto e lo dirò sempre, perché la Juve è un'altra squadra, per me dovrebbe fare un campionato a parte, noi siamo la squadra competitiva, la squadra... Nel fine settimana, caro Davide, ci sono state diverse manifestazioni da parte di un gruppo che si chiama Le Sentinelle in Piedi. Sì, le Sentinelle in Piedi. Ora, ovviamente, quello che pensano questi tizi a me fa orrore. In alcuni casi, in altri no. Cosa fa? Manifestano fermi, immobili. Ti fa orrore, no? Alcune cose che dicono, non tutte, mi fanno orrore. Oh. Ma hanno tutto il diritto di dirle. Soprattutto sono fermi, immobili, in silenzio, fanno delle manifestazioni totalmente pacifiche. Allora ti dico una cosa, queste sentinelle in piedi, che sono, li possiamo definire degli ultracattolici, dei cattolici molto ferventi, contro il matrimonio gay, contro l'adozione, hanno tutto il diritto ad essere contro i matrimoni gay, tutto il diritto ad essere contro l'adozione. E non ci deve essere qualche scansafatiche dei centri sociali, degli perché antagonisti. Scansafatiche degli perché antagonisti. Perché quelli sono scansafatiche vanno, mentre aspetta, gli altri no. Che vanno a rompere i coglioni vanno a questi qua. A fare una contromanifestazione. Non devono andare a rompere i coglioni. Chiaro? Sono meglio le sentinelle in piedi contro i matrimoni che quei pazzi che hanno manifestato a Napoli. Molto meglio, molto meglio. anche se poi dicono cose che non condivido. Perché per esempio mi chiami amico della CGL del Teatro di Roma? Perché mi chiami adesso? Senti perché? Questa cosa della di una sentinella di Bologna. Amico mio, sono alla radio, ti devo richiamare. Fermo. Tra poco, fratello. Bravo. Ciao, grazie, ciao. C'è una notevole documentazione scientifica sul fatto che la omosessualità è una anomalia che ha anche degli aspetti potenzialmente patologici. No, è stato tolto dal 73, è stato tolto dal manuale diagnostico. Sì, è stato tolto, ma questo sa che i manuali vengono fatti dalle lobby. L'omosessualità ha risvolti patologici, dice questo signore. Io sono contrario, ma questo qua ha tutto il diritto di dirlo. Tutto il diritto di dirlo. Qualcun senza qualcun altro ha diritto di fare una manifestazione pacifica. Violenta. Ma no, ovvio, non violenta, certo, ci mancherebbe. Razzi, vogliamo ricordare Razzi che ha detto che non esistono i lager in Corea del Nord, tutto inventato, non ci sono lager. Tutto inventato secondo te, tutto inventato? Ma io penso di sì, io ho mai visto i lager, sono 7 volte che vado di là. Beh certo, non te li fanno vedere. Guarda che l'ho girato dal nord al sud, l'ho girato tutto, sì. Ma dove sta sti lager? E per concludere questa copertina, caro Parenzo, della Zanzara di oggi, c'è... Beh, voglio farvi sentire quello che ha detto la Boldrini, perché bisogna sentirlo bene, il Presidente della Camera, non ce l'ho per forza col Presidente della Camera, però alcuni mi hanno segnalato questa roba dei giorni scorsi. La Boldrini che dice, a proposito dell'ISIS, di quelli che vengono decapitati, che sentiamolo, perché è molto interessante questa cosa qua, dice una cosa precisa su questa roba, sentite. Noi ce ne accorgiamo oggi perché noi siamo minacciati, ma per ogni nostro occidentale lì ci sono migliaia di persone che sono sotto scacco, minacciate. Io ho incontrato il presidente tunisino ultimamente, mi ha detto per ogni occidentale che viene decapitato ci sono 1000 dei nostri che vengono ammazzati. Adesso lei cita il presidente tunisino, ma lo fa condividendo quello che dice il presidente tunisino, cioè per ogni occidentale decapitato ci sono 1000 dei nostri che muoiono. Tu capisci, tu capisci, cioè lei condivideva questa roba qui. No, condivideva. A me non sta molto simpatica la Boldrini, quindi non la posso Dai, difendere su. No, non voglio neanche difenderla, quindi no. Ma è con noi, grande ritorno alla Zanzara in una giornata molto calda, molto molto calda per il calcio, per l'Italia, con botte da orbi da una parte e dall'altra, il professore avvocato Carlo Taormina. Buonasera, grande tifoso della Roma, buonasera. Buonasera professore, come sta? Bene, benissimo. Grande Carlo, ciao, bentornato. Allora, sono in attesa di pagare la condanna alla quale che mi è stata inflitta da 10.000 euro alcuni personaggi, punto e basta. Vabbè, della lobby gay, come li vuoi chiamare questi personaggi? No, guarda, io non li chiamo più, provvedo solo a fare iniziative giudiziarie, punto e basta. Tempo. Sai come dice qualcuno, caro Carlo, amico mio, saluti e baci, paga la multa e taci, però è vero, ti sta bene Davide, no, sta a, bene. Me, a me dispiace, figurati. Senta, ragazzi stiamo calmi, dobbiamo parlare di... Hai scritto che ti fa piacere. Esatto. No, ho detto che mi può dispiacere umanamente, ma mica per la persona, diciamo. No, ma per le idee, se c'è stata una sentenza di un tribunale. Hai scritto una cosa. Beh, bisogna discutere di queste cose. Se un gruppo di persone si è sentito offese dalle tue parole, amico mio. No, ma questo è un discorso. Un altro discorso è quello che fai tu, e cioè che invece il mio sarebbe il torto, e che quindi sia è giusto che io paghi il torto, secondo quello che hai condannato. Detto vabbè ragazzi, però non dobbiamo parlare di questo, andiamo avanti, vabbè, fammi capire, siamo a discutere qua in un contesto assolutamente non volevo discutere di questo, su, dai, va calma bene, allora bene, professore, quanto è incazzato per ieri? Non è possibile fare una misura di quello, perché veramente siamo arrivati a una situazione, io direi proprio che il colmo è stato superato da molto tempo, ma questa si pensava che tutto quello che si è discusso fino a questo momento, in questi anni eccetera, dopo Calciopoli e quant'altro, dopo Conte, qualcosa forse ma che pensi della Juve? della Juve. Penso che secondo me la situazione è talmente ormai incastrata, degradata e incancrenita che bisognerebbe lasciare i campionati e farglieli fare da sole, in modo tale che non abbiamo più da dover combattere con queste situazioni. Non spendiamo soldi, non spendiamo emozioni, non spendiamo tutto quello che facciamo. Tutto noi corrotto, tifosi. Dici? Se questo non è un dato sul quale riflettere adeguatamente, tre gol, tutte e tre inesistenti dal punto di vista francamente credo che ci siano elementi per poter discutere adeguatamente. No, ma ho capito, ma che faresti tu? Per le quali questo succede? Che cosa penso io? Che vanno denunciati tutti, che vanno arrestati. A parte il fatto che noi abbiamo già denunciato parecchi casi e pensavamo. Vabbè, ma in questo caso che bisogna fare secondo te? Quando c'hai due rigori dati che non esistevano e c'hai un gol in fuorigioco, ma fammi capire, ci può essere qualcuno in questo paese che si preoccupi di capire che cosa succede? Allora, come definisci Rocchi? Rocchi è uno da cacciare dal mondo degli arbitri, ma sicuramente invece crescerà di importanza, perché queste sono le regole del mondo del calcio, che certamente Contavecchio non possono essere che state perpetuate. Ma guarda che Tavecchio è contro la Juve in teoria, comunque, ma non ha importanza, ma vedi, ma però scusa professore, niente. Io voglio capire una cosa, non conta niente. Voglio capire una cosa, cosa bisogna fare a questo punto? Tu dici bisogna ritirare la Roma, non deve più giocare i campionati praticamente. Io dico questo, che ci vuole una reazione forte, non so, pensiamo a uno sciopero, pensiamo a qualsiasi altra iniziativa. Cioè lo sciopero che sia, la Roma non... A me piacerebbe che la Roma se ne andasse dal campionato, perché diventerebbe una denuncia forte e di quelle che potrebbero produrre un qualche effetto, ma sicuramente questo non potrà essere fatto, perché ci sono i tifosi, perché c'è tutto un... Ma un la Juve è una squadra di ladri? La Juve la definisci una squadra di ladri? La Juve è una squadra che ha fatto molte cose che sono state accertate giudizialmente, calciopole e tutto, non positive, calciopole eccetera. La Juve è negli anni precedenti, anche se in minore misura con Conte, ha avuto certamente i suoi soliti vantaggi da parte degli arbitri, e continua ad averli? Continua ad averne a pari punti Roma-Juventus in uno scontro diretto, e noi perdiamo per tre gol che non esistevano. Dimmi tu se non c'è veramente da prendere un mitra, insomma. Da prendere un mitra, professore, da prendere un mitra. Un altro processo, un mitra di quelli... di quelli ideali, così ovviamente. Ideali, ma uno dice da prendere un mitra, dai, ma su. Guarda, ma poi ci lamentiamo che possa succedere qualcosa negli stati, ci lamentiamo di questo. Ma dai, su. Ma no, ma poi avete sentito i commentatori. Ma la moglie di Agnelli, che ha detto a Totti vatti a giocare un altro il tuo campionato, allora? Ma guarda, ormai siamo abituati a tutto, non abbiamo assolutamente remora di ogni cosa, ne hanno detto anche di peggio a proposito di... Ma Totti dovrebbe essere deferito per quello che ha detto, deferito. Ma così andrà a finire, che Totti è deferito e che la Juventus si prende i tre punti. Ma in tribuna chi c'era ieri? Io ho visto tutte persone vestite di nero o di scuro. Ma che vuol dire? Sembrava così un incontro di un gruppo di grandi personaggi, di personaggi influenti, i poteri forti. Sì, ma guarda, qui secondo me i poteri forti stanno dappertutto e ormai sono talmente contro la Roma. Contro tutti. L'importante è che la Juventus sia dove vogliono che sia, e ci riescono. Sì, però professore dovrebbe avere la forza e il coraggio di dire che la Juventus sono una banda di ladri. Cioè, professore, devi andare fino in fondo su questa denuncia. Io non dico che è una banda di ladri, dico che sono stati rubati 3 gol, poi gli altri traggono le conseguenze, perché siccome io non voglio continuare a pagare per errori che non faccio, adesso, ma chi va arrestato? Oggi mi hai parlato di arresti. Chi va arrestato? Chi va arrestato? Chi va arrestato? Va arrestato chi permette che il calcio vada in questa direzione. Aspetta un attimo, purtroppo... che ci ha chiamato un attimo dal centralino ed era scatenato un ascoltatore. Aspetta, Luca Torino, Luca, dimmi. Sì. Ciao Luca, dimmi. Sì, dimmi. L'avvocato sta facendo una difesa della Roma come ma chi sei tu? Chi sei? Sono Luca da Torino, avvocato, come stai? Sta bene? Bene. Lo sa che il giorno 31 il suo amico Narducci va in giudizio ed era pubblico ministero, mi pare, a Cassino. Vabbè, ma adesso quello che ce ne frega, Luca, che volevi dire? No, scusa, siccome lei è l'avvocato, ha incominciato in Lazio, la Juve, in Lazio. Vabbè, ma non ce ne frega niente. Ora basta con queste cose qua. Vabbè, Luca. L'avvocato vuol dire che non capisce di calcio. Va bene, d'accordo. Non capisce di calcio. Però smettetela voi di rubare le partite, smettetela voi, altro che noi. Avete rubato 3 gol, ma non uno. Ma non era visto la partita di ieri, sì. Luca, stai calmo. Lei sta male di testa, ma come fa a non rendersi conto? Ma non ho capito, si dimentica la storia. Luca, non ho capito, ma tu... Tutto quello che è stato contestato alla Juventus. Vabbè, è impazzito, Luca. La Juventus ha chiesto il piacere di poter andare in Serie B quando è stata sottoposta al processo per calciopoli. Ma che stai dicendo? E non vi è toccata la lezione, ma vedete, non era colpa, la colpa non era vostra. Luca, scusi, aspetta un attimo. È di chi viene Bordone, capito? Sì. La colpa è di chi viene Bordone, e cioè il mondo del calcio, i vertici del calcio. Vabbè, ma professore, qui si è arrivati all'assurdità che ci sono interrogazioni parlamentari, ci sono interrogazioni parlamentari, dai. Si deve fare un reato, perché fino a che non c'è una previsione che inquadri questi fenomeni nella criminalità vera e propria, quindi non possiamo dire che sono criminali, perché mancano delle norme. Ma come criminali? Chi è criminale? Professore, chi è criminale? Si vuole una norma che preveda che in situazioni di questo genere si realizzi un reato nel quale possa mettere bocca la magistratura, altrimenti andremo sempre... Ma qual è il reato? Qual è il reato qui? È una frode sportiva di quelle da dimostrare, una frode sportiva di quelle serie. Ma dai, professore, su, ma che frode sportiva, dai, su. Ma scusate, avete mai visto... Ma che vuoi denunciare Rocchi? Vuoi denunciare Rocchi? Vuoi denunciare... Ma noi certamente lo denunciamo. Ma voi chi poi? Noi chi? Noi cittadini, noi tifosi e cittadini italiani, perché al di là del tifo c'è il fatto di essere cittadini italiani. E allora noi vogliamo chiedere ai magistrati di stabilire se una situazione come quella che si è verificata ieri sera, e cioè con 3 gol, uno appresso all'altro, uno più falso dell'altro, non ci siano... Cioè, secondo te c'è la frode sportiva? Se quella sia un comportamento intenzionale. Io non lo so se è intenzionale. Non lo so. Che ci sarà qualcuno che potrà accertare se ci sono già troppi processi in Italia, vogliamo ingolfare i tribunali con queste stronzate, la frode sportiva su Rocchi, dai. Teniamoci i campionati falsati, teniamoci le partite truccate, teniamoci tutto quello che vogliamo, perché non abbiamo la capacità e la forza di reagire nel modo giusto. Siccome fino a questo momento... Ma dai, interrogazioni parlamentari, tribunali per puttanate del genere, professore. Sono milioni e milioni di euro che... Ma quando mai? Su questo ha ragione lui, Vabbè, ho capito, ma è uno sport, basta con... quali sono gli interessi economici. No, no, ha ragione Taormina su questo, ci sono milioni di euro in ballo, ha ragione Taormina, sono delle aziende, delle società quotate in borsa. Oh. Ma rendetevi conto di quello che significa dal punto di vista del prestigio dei giocatori, di quello che valgono i giocatori quando te li vendi, di tutte le cose che stanno intorno al mondo del calcio, che è la quarta, quinta industria d'Italia da quello che è stato calcolato. Ma, e allora, ma ragazzi, hai ragione a Taormina quando dice che ci vuole, che è possibile ignorare. Ha ragione sul fatto che deve essere fatta chiarezza, è un'industria ma voi andate al manicomio, professore, ma lei è da manicomio, da manicomio siete voi e mi ci mandate pure al manicomio, oltretutto. Ma lei è da manicomio, è da manicomio. Da manicomio è lei e tutta quanta. Ma è da ricovero. Ricovero sono quelli che hanno commesso i fatti di ieri. Le voglio dire una cosa. Metta conto che quei tre gol regalati sono il frutto di una intesa tra la squadra e l'arbitro, o tra qualcuno della squadra. Vogliamo sapere spendere soldi al contribuente per queste stronzate, professore? Certo, il contribuente li spende volentieri i soldi. Ma quando mai? Interrogazioni parlamentari. No, adesso lei che vuole denunciare Rocchi, assolutamente. Bisogna capire come stanno le cose. Ma che capire? Non c'è niente da capire. Tenga presente che poi vengono fuori le violenze. Ma lei ha parlato di Mitra, viene voglia di impugnare Mitra, professore, su, il riferimento al Mitra naturalmente come Bossi quando parlava di fucili, allora, ma scusate, secondo voi è tutto regolare? Ma non bisogna andare in tribunale per queste cose, basta con i tribunali. Lei ingolfa la giustizia, si vergogni. Non andremo in tribunale se ci fosse una giustizia sportiva. Lei ingolfa la giustizia, si vergogni. Va bene, mi vergogno, d'accordo, arrivederci allora. Ciao. Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove stiamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Della Zanzara, quelli che difendono a spada tratta che cosa? Il matrimonio tradizionale contro il matrimonio gay, contro le adozioni, le sentinelle in piedi. Devo dire la verità, per il solo fatto che sono in piedi, sono silenziosi, fanno manifestazioni pacifiche, a me questi signori non stanno antipatici, anzi sono così a pelle, mi stanno simpatici. Poi ovviamente dicono delle cose che io contrasto, però mi stanno simpatici. Dicono che l'omosessualità ha risvolti patologici, ovviamente sbagliano, sono amici che sbagliano, ma il fatto amici che sbagliano, perché sono amici? Sono amici perché manifestano. Amici miei? No, manifestano pacificamente rispetto a tutte quelle migliaia di. No, perché ci sono manifestazioni e manifestazioni in Italia. In Italia ci sono manifestazioni che rompono i coglioni alle persone, manifestazioni che invadono le strade, che bloccano le strade, manifestazioni violente con fumogeni, con gente che dipinge. Dipinge imbratta le città. I negozi, poi uno deve spendere. Invece questi qua cosa fanno? Prendono un libro, si presentano in piazza, in gruppo, e in silenzio leggono tutti insieme, le sentinelle in piedi, dicono cose terribili, tremende, dilla tutta. Adesso quel ragazzo che si è vestito da Hitler per prendere in giro le sentinelle in piedi, ed è stato denunciato. Allora anche lì possiamo dire qualcosa, ma secondo te, un poliziotto, mica perché è un poliziotto deve capire al volo che quella è una provocazione situazione, vede uno vestito da nazista, lo prende, lo porta e lo porta in caserma. A parte è che normale. Non era vestito come i nazisti di Charlie Chaplin. Vabbè, nel ma, film ma perché uno deve capire questo? Si vede uno ma vestito, ma deve capire, ma se uno che non capisce la mascherata, la provocazione fatta apposta, ma non è successo nulla, però non è successo nulla. Fammi sentire le sentinelle in piedi, mi stanno simpatici, contro quelli che rompono i coglioni a questi, che ma non li vorrebbero, no. Sì, tirano la roba addosso, hanno usato anche delle piccole violenze nei confronti di qualcuna di queste sentinelle. Siamo qui per denunciare una serie di minacce contro l'uomo in corso nella nostra società e dunque il futuro dei nostri figli. No, le minacce contro l'uomo no, però adesso quando sento queste cose però ragazzi dai, le minacce contro l'uomo no, ancora. Un diritto non è un desiderio, soprattutto non è qualcosa che può ledere dei diritti naturali di altre persone. In America già stanno affermando delle unioni poligamiche, ci sono persone che si sono sposate con il proprio computer, con il proprio cane, di qualche giorno fa una donna si è voluta sposare con se stessa, certo, perché se l'amore è amore e non si definisce cosa sia l'amore, tutto è lecito. Ma nessuno vuole fare sposare un uomo con un cane, nessuno vuole far sposare un uomo con un computer, signori delle sentinelle in piedi. Ci sono semplicemente i matrimoni omosessuali tra due persone dello stesso sesso, gente che fa sesso normalmente come fate voi, se lo fate, con i vostri mariti o con le vostre mogli. Gente che fa sesso, sì, due persone che fanno sesso insieme, due uomini e due donne, capito, chiaro? Che però vogliono anche sposarsi. E facciamoglielo fare! Parliamo di cosa si tratta di diritto. Quindi se si pensa che quello è un diritto, perché una persona non si può sposare con il proprio cane? Perché non una famiglia poligamica? Un incesto? La famiglia poligamica con l'incesto? Ma cosa c'entra? L'omosessualità con l'incesto? Ma cosa stai dicendo? Ascolta, se l'amore è amore, si può riconoscere tutto. Se no, io provo i brividi anche per le famiglie omosessuali. In Inghilterra tanti professori stanno parlando dell'università di quanto sia giusto l'incesto, di quanto la pedofilia sia una forma d'amore. Cioè, secondo questa signora, questa sentinella in piedi, praticamente di io questo mi metto passo seduto, altrimenti svengo a sentire. No, non stare in piedi. Allora, no, di questo passo si arriva all'incesto, si arriva all'incesto, capito? Cioè, si passa dalle unioni omosessuali e si arriva all'incesto. Sei tu che li difendi, le sentinelle. Io non difendo questo, io difendo il loro diritto di dire anche d'accordo. Queste cazzate, capito? Senza essere trattati. Ma qualcuno che li rimbrotta, però. Ma dai, che rimbrotta? Ci sta, sono quattro cialtroni che sono andati. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il governo è intenzionato a porre la fiducia sulla riforma del lavoro. In corso il Consiglio dei Ministri, la minoranza PD insiste nel chiedere modifiche. Domattina le parti sociali a Palazzo Chigi, Camusso, Renzi come la Thatcher. Sul lavoro la CGIL è pronta al confronto ma anche al conflitto. TFR in busta paga, il governo cerca di accelerare l'anticipo su base volontaria, dubbi delle imprese e sindacati, deve restare la tassazione agevolata. Dal sinodo all'apertura ai divorziati risposati civilmente, appartengono alla Chiesa ed hanno il diritto di essere accompagnati dai loro pastori. I jihadisti issano la loro bandiera nera a Kobane, al confine tra Siria e Turchia, teatro da giorni di violenti scontri tra curdi e miliziani islamici. A Hong Kong gli studenti sgomberano i blocchi davanti agli uffici governativi, riaprono banche e scuole, ma tra i giovani resta la voglia di democrazia. Dopo le polemiche sugli errori arbitrali, Juve-Roma finisce in Parlamento e provoca contraccolpi in borsa. La moglie di Agnelli se la prende con Totti. Senti, adesso indignati, dai, perché le agenzie di stampa, i siti hanno rilanciato le frasi che Razzi ha detto la settimana scorsa alla Zanzara. Per esempio, i dissidenti della Corea, secondo lui, vogliono solo soldi. cioè quel tizio là che ha scritto quel libro, intervistato anche dal Corriere della Sera recentemente, è uno in cerca di quattrini, di fama. I lager non esistono, lui è andato 7 volte in Corea e non ha mai visto i lager. Dai, indignati, incazzati, forza. Ma c'è da indignarsi, c'è da ricordare che questo signore qui, parlamentare, è stato ospite del governo coreano in albergo, già questo basterebbe e la diciamo tutta, e poi uno si stupisce che difende il governo, ma per forza gli ha pagato il soggiorno, il vitto, vabbè, e l'alloggio. Quello, dai. Beh, già questo vuol dire che sei in bed, che sei a disposizione di quel governo, va alla festa invitato qui dal consul, dall'ambasciatore della Corea del Nord. Ma dice, denunciato pure lui, non ho capito, va. Dice che, ma non è che denuncio chiunque, ma bisogna tarare da che pulpito viene la predica, da uno che va lì in viaggio, pagato con l'aiuto del governo coreano, quindi è ospite, quindi mai parlerà male di questi, ospite dell'ambasciatore qui a Roma, non si sta a festeggiare che cosa, visto che quella è una dittatura. Se uno andasse ospite da quelli dell'ISIS, se ci fosse l'ambasciata degli amici dell'ISIS, paragonando i coreani all'ISIS, uno taglia le gole, l'altro il signor Califfo al-Baghdadi, autoproclamatosi tale, taglia le gole in giro non per mezzo Medio Oriente. Io conosco il signor Califfo, sì, il signor Califfo, sì. Lì che a un certo punto dice chi è lei? Sono al-Baghdadi, che quindi Califfo, ma Califfo di che cosa? Io conosco solo un Califfo. E taglia le gole. E quell'altro è una dittatura sanguinaria pure quella, dove non c'è il dissenso, se dissenti viene messo in un campo di rieducazione o ti sparano e sparisci dalla circolazione. Certo, meno cruento, perché non va su YouTube a fare i suoi proclami il King Jung Mansun III della Corea. Certo, certamente, magari è più presentabile di quello con quella barba nera lunghissima, quella faccia terribile, quegli occhi iniettati di odio. Certo, Kim Jong Yang Bu è lì che porta i cani a passeggio e ha le strade pulitissime. Sicuramente fa meno paura. Però, ma non è che non sia un dittatore quello lì, Razzi. Tu non le hai mai visti i lager? Io mai visto. Queste mi sa che si può fare i soldi alle spalle della gente che magari vogliono, gli stanno dando notizie. Ma quando mai lui ha fotografato un lager? Ma dov'è? E questo purtroppo la gente a bocca e vende i libri. Tutto inventato secondo te? Ma io penso di sì. Io ho mai visto i lager, sono 7 volte che vado di là. Beh, certo, non te li fanno e vedere. Guarda che l'ho girato dal nord al sud, l'ho girato tutto, sì. Ma dove sta sti lager? Che vergogna. Dicevano la stessa cosa dell'autore di Arcipelago Gulag, figurati. Quindi Pasquina, nulla è cambiato. Ferrara, la signora Pasquina. Sentiamo, Pasquina. Sì, allora io ho partecipato qui a Ferrara. Lei tenga presente che qui a Ferrara abbiamo il vescovo Negri, che è proprio... Che non è negro, ma si chiama Negri, allora? No, è che è molto, diciamo, tradizionalista. Allora? E hanno fatto la manifestazione sul listone. Parenzi dovrebbe sapere che non è la piazza, è il listone, che lui ha venuto la libreria, quando è venuto con Sgarbi, forse se lo ricorda. Sì, sì, mi ricordo perfettamente. Ho partecipato non da cattolica, perché io non vado allora? In chiesa, ma come per la libertà di manifestare. Vabbè, che vuol dire per la libertà di manifestare? Lei condivide quello che dicono sue sentinelle o no? Sì, certamente. Cioè, lei fa schifo, il matrimonio gay le fa schifo? Sì, tutto quello che a lei piace a me fa schifo. Scusi Pasquina, se lei ogni tanto le sarà capitato di vedere un gay per strada nel suo palazzo, eccetera, no? Ma io sono vecchia, non è che possa osservare. Beh, lei è vecchia, che vuol dire vecchia? No, che sta a casa, non è che... Ho capito. Non ti guardo in faccia tu. Se uno è gay o meno, non ti guardo. Non e in televisione le sarà capitato di guardare qualche scena? Cambio canale. Cambia canale subito. Sì, sì. E a volte cambio anche quando parla lei, perché... Io le voglio mandare due gay a casa che si baciano, davanti a lei, signora Pasquina. Credo che non aprirò la porta. Ma no, gliela mando io a casa, una bella coppia omosessuale. Guardi, quel vescovo lì, che è molto bravo... Ha anche definito la nostra piazza davanti alla bellissima cattedrale che abbiamo, sì. Postribolo, perché alla notte fino alle 2-3 di notte sono tutti lì seduti a che fare fanno? Delle robacce. Che quindi fanno? Abbiamo a Ferrara, ma che fanno fino alle 2 di notte? Anche degli atti osceni, cioè che fanno? Si baciano? Che fanno? Ah, non lo so, li ha visti il vescovo. Ma che c'entra? Vescovo, non è che la verità è il vescovo. L'ha visto il vescovo. L'ha visto il vescovo. Pasquina, Pasquina, adesso io le mando. La libertà è anche il rispetto. Ma sì, per carità, ma infatti è giusto manifestare. Io le mando una signora lesbica, perché così le dà un bel lei bacio. Non mi mandi nessuno, perché tanto io non apro la porta. Sì, sa? Sì, sì, una bella signora lesbica, sì, le dà un bacio, sì, in bocca, sì, con la lingua. E io dico, con no, la lingua. No. Sì, mi sì, sì, sì. Parenzo piuttosto. No, Parenzo, no, per carità, Parenzo sta a Roma. Se vuole, guardi, le racconto l'episodio di una bella coppia di lesbiche a casa sua. Anni fa è venuto a Ferrara dietro a Sgarbi, che ha presentato il fatto, suo libro. Eravamo tutti in una bella sala di San Cristoforo. Allora è vero, sala, è vero. E lui era lì che si guardava. Allora io gli ho detto: ma lei è Parenzo? E lui mi ha sorriso. Non so se lo ricordo. Vabbè, ho capito, sì, sì, mi ricordo perfettamente a Ferrara, certo. Ma non ti quella ricordi libreria. Un cazzo, ma no, ti... mi ricordo la presentazione del libro. Come no, mi ricordo. Che nessuno lo abbia riconosciuto. Io sì, perché mi è simpatico. No, mi ricordo di del Pasquina, no. Signora. Di una signora che è garbata, che è gentile, che si è avvicinata. Io voglio sì, mandarle due lesbiche a casa. È vero, se lo ricordo, Parenzo. Due lesbiche a casa, ecco, le voglio mandare. Venga, lasci perdere, Cruciari, lasci perdere. Io le mando due lesbiche a casa che si baciano, sì, così sì, le baciano pure lei, fate un bel trio. Lascia tranquilla la signora, dai. C'è l'invasione dei froci. La polemica su Marchionne, caro Parenzo, che per te è una specie di mostro residente, no, in Svizzera, e dunque uno che paga le tasse in Svizzera, in qualche modo tradisce l'Italia. Un sola, furbetto, un sola, furbe, cioè sei, come della, ha detto... sei un sola, benissimo. Allora, intervistato un signore dopo un convegno, cioè da un giornalista, dice giustamente: la residenza fiscale è un problema mio. Dice, la dove gabbia. Io sono. No, ma è stupendo, sì, alla gabbia. Ci si l'ha visto ieri. Lei prende i soldi della cassa integrazione e poi va a pagare le tasse all'estero, sia con Fiat sia personalmente. La residenza fiscale mia è un problema mio, non suo. Però lei è italiano. No, io sono residente fiscale da più di 20 anni in Svizzera, prima che entrassi in Fiat. E continuo a rimanere ancora e in Svizzera? Continuo a vivere in Svizzera, quella è casa mia. Non mi dica dove dovrei andare a vivere. Conto di quello che volete. Volete no, che un signore un che da 20 anni, certo, con problema suo. Volete che un signore che più da più di 20 anni è residente suo, è una in Svizzera pubblica, ha un beh, ruolo? Sì, che c'entra? Quindi no, si può ma chiedere un, dove ha la residenza. È il capo della Fiat, è il capo della Fiat. Si può chiedere dove sì, ha e perché infatti lui risponde, sono là. In Svizzera. Risponde all'altro: ma lei vuole che io metta la residenza dove dice lei, oppure siccome da 20 anni che sono qui posso tranquillamente continuare a essere residente in Svizzera? Per quale motivo è uno che non rispetta il nostro paese se ha la residenza fiscale svizzera da 20 anni? Io preferisco ma Della smettila. Valle e preferisco anche un altro imprenditore che si chiama Brunello Cucinelli, ad esempio. Ma che vuol dire? Regalato, ma hanno un'altra storia. Che ha avuto un'altra storia. Ha diviso con i suoi dipendenti l'utile Aridai che la sua azienda ha fatto. Sì, come no? Brunello Cucinelli, eccellenza italiana, sì, 783 dipendenti. E allora? Ha avuto un utile di 5 milioni di euro che allora ha regalato ai dipendenti, ma che hanno avuto in busta paga 6.000 euro circa. Bene, in più. Bravissimo, applausi. Che c'entra questo Marchionne? Questi sono gli imprenditori. Che c'entra Marchionne? Questi sono gli imprenditori Marchionne che investano qui, che hanno Marchionne delle eccellenze, che dividono coi loro lavoratori gli utili ma che sei, hanno fatto. Sei di una banalità, allora, sconcertante. Banale. Guarda, sconcertante. Cucinelli e della Valle. Cucinelli e della Valle. Cucinelli e della Valle. C'entra? Cucinelli e della Valle. Cucinelli e della Valle. Cucinelli e della Valle. E tutti i di Marchionne, che sta in Svizzera, che ha una sede a Londra, un'altra a Detroit. Oh, ma fa benissimo. Che ha quel maglioncino anche a luglio. Basta, basta. Senti, a luglio non si portano maglioni, a luglio. Senti, fine, senti, fine della discussione. A luglio uno non mette il maglione. Hai capito? Non si mette il maglione a luglio. Non si mette mai. Tutte le volte che uno che ha intervistato anche a luglio col maglione, anche agosto col maglione. Ma si mette a dicembre il maglione. Basta ora. Senti, basta. Questo, mi hai stufato. Sì. Tu e il maglione, tu sempre il maglione. Ma perché il maglione a luglio? Hai mai visto uno col maglione a Detroit? Detroit, a Detroit. Oh! Senti questo Gianluca Gori. Che uno... difendi anche il maglione. Aspetta, a luglio. Ma certo. Il maglione che è tutto sudato sarà. A luglio non si va col ma maglione. Sono cazzi suoi, no? Devi dirlo anche tu, che a luglio non si va col maglione. No, no, si può andare anche col maglione. Io sono freddolosissimo. Vergogna. Sono freddolosissimo. Allora, vergogna, a luglio questo, col maglione. C'è ridicolo questo Gianluca sei. Gori, un nostro ascoltatore. Nostro ascoltatore, nonché appartenente, credo, al gruppo dei Riccardiani. Al famoso gruppo. Dai, insulta i Riccardiani, dai. Insulta i Riccardiani, dai, insultali. Ma no, tutto perdi giorno, dai. Allora, perdi giorno, vi ha definito, perdi giorno. Allora, Gianluca Gori, nostro ascoltatore, il quale se la prende con te sulla storia delle tasse di Marchionne. Sentilo, è molto efficace, senti. Parenzo, smettila di dire cazzate, mi tocca dare ragione un'altra volta a Cruciani. Ma certo che Marchionne le tasse non le paga in Italia, ma le paga in un altro paese. Andrà a pagarle dove se ne paga di meno. Matte, le scarpe, dove cazzo vai a comprarle? In un negozio che te le fa di più o in quello che te le fa di meno? E allora, se lui ha la possibilità di pagare di meno, perché non lo dovrebbe fare? Per quale cazzo di motivo? Spiegamelo! Via, da uno come te, Parenzo, che ha studiato, che parla alla radio, certe cazzate non si dovrebbe sentirle dire. Dai, se ti ravvedi poi noi ti perdoniamo, Questo qua è numero uno assoluto, questo Gianluca Gori. E devo dire un'altra cosa, come mi suggerisce un carissimo amico, non è Marchionne quello che decide su eventuali premi agli operai, ma è la proprietà. Marchionne fa il manager, è una cosa diversa. Marchionne è amministratore delegato della quell'azienda. E non va mai in televisione a chiacchierare. Non va mai in televisione a chiacchierare rispetto all'altro. Non va mai in televisione a dire cazzate. Ho fatto due esempi, Della Valle e Cucinelli. Della Valle e Cucinelli, hai capito? Hanno avuto di più e hanno diviso con i loro operai, con i loro lavoratori. Quelli che hanno reso grande quella fabbrica, quello che hanno reso grande quella fabbrica. Perché se Marchionne non decide degli stipendi, ma decide dei contratti, allora ti dico, Marchionne, a luglio ti togli quel cazzo di maglioncino per cortesia. Fissato questo ma perché sei fissato? Mi fa impazzire l'idea che lui anche a luglio. Ma ho capito, ma non c'entra niente, ma quello è un modo di vestire. Preferisce avere il maglione. Detroit, ma preferisce avere il maglione, saranno cazzi suoi o no? A luglio non si può, non è credibile. Ma sono affari suoi. Comunque, tolto il maglione, se vi piace avere il da luglio, sono fattacci vostri. Però questo è un altro tema. Senti, sono però, d'accordo. Senti una cosa meravigliosa. Sai che si è discusso molto di quello che succede nelle fabbriche. No, voglio riparati di Cucinelli. Guarda, oddio, perché... basta questo Cucinelli, dai, su. Non me ne frega nulla di Cucinelli. Quello che succede nelle fabbriche. 783 dipendenti, sì, che hanno ricevuto appunto, un bonus di 6.000 euro in più. Una cosa è la Fiat, amico mio. No, una cosa è un'eccellenza Chrysler, italiana, dai. Che ha diviso gli utili con, oddio, i suoi lavoratori. No, applausi, applausi così. Certo, così smetti di rompere i coglioni. Applausi a Cucinelli, benissimo. Adesso non rompere il cazzo e stai zitto. Allora, ma è vero. Aspetta. Allora, un'altra cosa. Tu sai che c'è questa discussione sul fatto che Farinetti licenzi delle persone che in realtà sono a tempo determinato e uno ha il diritto di rinnovare o no il contratto. Cioè non li conferma. Sì, ci sono delle persone che si lamentano. Ma non è che li licenzia. Ma secondo loro sono licenziati. Comunque, lasciamo perdere. Però mette una pietra tombale su quello che accade da Farinetti l'amico Abbate, Fulvio Abbate, sulla pizza di Farinetti. Senti cosa dice Fulvio Abbate sulla pizza che si mangia da Italy. L'ho sentito ieri alla cosa, da Gala Gabbia. La pizza si che ho mangiato da Italy faceva schifo. No, credo sia la dichiarazione più politica che si potesse fare. Anche il guanciale faceva vomitare. Vabbè, dai, mi assumo la responsabilità. No, perché se tu. Da consumatore, perché se tu dici che si tratta di cibo d'alta fascia e fai anche tutta un'ideologia, diciamo, estetizzante su quella catena, allora io pretendo che la pizza mi produca un orgasmo. È il minimo. Non invece... sto scherzando, e invece era ributtante. Vabbè. Fulvio! Fulvio Abbate perché è controcorrente. Io ho mangiato la pizza più volte da Italy, l'ho trovata una pizza assolutamente normale, non perché sono amico di Farinetti, ma credo che sia normale. Vogliamo aprire un dibattito sulla pizza di Italy, come no, si mangia bene, si mangia male? No, anche perché è una pubblicità in diretta. Improprio. Assolutamente. Dove andiamo? Andiamo a Andrea, provincia di Macerata, dai. Sì, salve Cruciani. Vai. Senti, visto che tu mandavi quelle lesbiche da quella signora anziana per fargli dare un bacio in bocca, sì, io stavo pensando di venire da te a darti un bel bacio. Perché tu sei procio? Tu eri... No, assolutamente no. E allora però, che vuoi da me? Se non sei proprio, perché te devo dare un bacio in bocca? Scusa. Visto che sta. Ma io non ho nessuna voglia di baciarti, guarda. Non ho alcuna. Perché non ho alcuna voglia di baciarti, perché sarei sicuramente brutto, sporco e cattivo. Sì, sono brutto, sporco e cattivo, e vengo a baciarti. Ma non ci penso nemmeno lontanamente. Se tu mandavi quelle lesbiche. Ma infatti lei ha detto di no. Lei ha detto di no. Oh, allora, perché insistevi con quella signora? Per quale motivo poi? Ma per quale motivo state facendo questa campagna pro gay? Avete rotto i coglioni. Ma perché? Cosa ha lei contro i gay? Scusi. Tra l'altro io ho detto che le sentinelle in piedi, quelle che protestano contro la cosiddetta cultura gay in Italia, a favore della famiglia tradizionale, eccetera, hanno tutto il diritto di protestare. Dicono delle cose terribili, alcuni di loro ovviamente, ma hanno tutto il diritto di protestare senza che ci sia qualche organizzazione o qualche gruppo di antagonisti, centri sociali perché? Che vada lì a rompere i coglioni. A protestare? Io non sto parlando di questo argomento. Ma perché abbiamo rotto i coglioni? Non ho capito. Ma se lei non piace. Della campagna pro gay che state facendo. Ma non quale campagna pro gay? Dai, su, sì. Amico mio, poi dai. Io ti volevo fare un'altra domanda. Come mai adesso sei favorevole alle adozioni delle coppie gay? Perché guarda che sono sempre stato favorevole. No. Qualche anno fa ero incerto, poi sono diventato favorevole. Ha problemi lei sul fatto che io cambio? Che evolvo le mie idee? Ci mancherebbe altro. Ma perché abbiamo rotto i coglioni poi? Scusa, le danno fastidio gli omosessuali a lei? Assolutamente sì, no. Sì, lei è infastidito. No. Ma allora che c'entra? No. Perché ci accusa di campagna? Scusi, che c'entra la campagna? Perché state facendo una campagna pro gay. Io sono addirittura favorevole ai matrimoni gay, ma assolutamente no alle adozioni, perché è una cosa assolutamente innaturale. Innaturale, bene. Un abbraccio, ciao, io non ti bacio però, ciao, ciao. E vengo a baciarti io, ciao Cruciani, ciao. Viva i Fraci, viva i Fraci! Get your motor running. Looking for adventure in whatever comes our way. Cari amici, popolo della radio, popolo della zanzara, abbiamo un protagonista della giornata di oggi, diciamo la verità, uno degli uomini del giorno. Totti. No, che Totti, che c'entra Totti? Sì, Totti, per carità, magari, non è questo il punto. Beh, no, però un mini Totti, cioè un tifoso di Totti, che però casualmente è anche deputato della Repubblica. Si chiama Marco Miccoli, Partito Democratico, buonasera. Bene. Buonasera. Come sta? Bene, una bella serata romana. Una bella serata romana. Detroit. Ma che c'entra Detroit? Dai, su. Allora, Miccoli, io voglio capire una cosa. Lei oggi ha presentato un'interrogazione parlamentare, anzi dice che presenterà al ministro dell'economia Padoan, che peraltro è anche tifoso della Roma, molto tifoso della Roma, lo sapeva lei? Sì, mi sono ricordato dopo questa cosa, sì, perché mi hanno fatto una domanda oggi, se sapevo. Chissà come la pensa su questa cosa della Roma. Che dice lei? Diciamo che si è visto la partita. Sarà incazzato nero pure lui? Beh, immagino di sì. Ma non è che ci ha parlato oggi, no? No, non ci ho parlato e devo dire che credo che insomma in questi giorni abbia anche un mucchio di lavoro da fare, quindi immagino che insomma. Ecco, appunto, questo dicevo. L'interrogazione, sì. E poi lei ha presentato un esposto alla Consob. Poi c'è lei, la classica doppietta. C'è un'interrogazione parlamentare al ministro dell'economia Padoan e esposto alla Consob. Tutto questo per la partita di ieri. Ora io dico una cosa, al di là dei contenuti che adesso lei ci spiegherà, che sicuramente hanno una loro rilevanza, una loro importanza per l'economia italiana, eccetera. Tra l'altro ha pure Parenzo che le dà ragione. Cioè, Parenzo dice sostanzialmente. No, io dico questo, senza che mi traduci. Dico che siccome c'è in ballo un interesse pubblico, cioè l'azienda del calcio, l'industria del calcio, è giusto indagare. Sono quotate in borsa, è giusto indagare, certo. Allora, Miccoli, io dico, ma con tutte le cose che ci sono in Parlamento, con tutte le cose di cui si deve occupare la Consob che si occupa di società quotate in borsa. Ma è quotata la Juve o no? Ma è proprio sì, la Roma? Sì. E allora è il caso di ingolfare la giustizia, no, il Parlamento e la Consob di cose che riguardano Roma-Juventus, caro Miccoli? Allora, diciamo che l'ingolfamento non sarà dovuto certo a questo, diciamo, adesso rispetto a tutte quante le cose che venivano dette adesso. Però c'è un punto. Allora, intanto noi non è vero che ci occupiamo, non ci occupiamo delle cose. Io domani a Luna sto con i lavoratori delle Vabbè, ma quello lasciamo perdere. Vabbè, d'accordo. No, però per dire che non è che ci distogliamo dal nostro lavoro quotidiano, che è drammatico, purtroppo, come viene ricordato. Lei sta con i lavoratori, però davanti alla partita si incalza e fa l'interno. In questo caso sto con i lavoratori, perché quali sarebbero? Ricordare che quello della quarta industria di questo paese, il calcio è la quarta industria d'Italia. Ah, lei sta con i lavoratori di questo paese. Certo, esatto, c'è anche migliaia di lavoratori, forse più di 10.000, con 100.000 iscritti alla Federcalcio. Ora, ma che c'entra questo? Scusa. Oggi tutto c'entra, perché quello che è successo oggi, se mi fa spiegare... Oggi che è ieri? Oggi, quello che è successo oggi in Borsa. Ah, in Borsa. Oggi in Borsa, sì. In apertura la Roma ha perso 4 punti percentuali, mentre la Juventus se ne guadagnava uno. Perché ha perso... Sostanzialmente il pareggio, la Roma ha perso 2 punti percentuali. Dunque? Siamo all'inizio del campionato. Dunque, lei sta dicendo che ci sono persone che hanno perso soldi, magari? Ci stanno regole che mancano nel mondo del calcio per regolamentare un calcio che è cambiato. No, però, piaccia o no, piaccia o no, oggi ci sono società quotate in borsa. E dunque? Piaccia o no, ci sono degli investitori stranieri, in questo caso il presidente della Roma, che non solo acquistano le società ma portano in Italia lavoro, fanno infrastrutture, così come ha fatto la Juventus. E non c'è la dubbio, Juventus, dunque ha investito sulla società, ha fatto lo stadio, ha creato un business intorno, c'è dunque un indotto, ci sono posti di lavoro. Quindi questo, diciamo, riorganizzarsi in chiave europea per competere con gli inglesi, gli spagnoli e i francesi, bisogna che si adatta a regole certe che al momento mancano. Però scusi, allora, Miccoli, lei fa un'interrogazione per sapere da Padoan che cosa, cioè... No, esatto, no, le dico se posso. Allora, il tema è questo. Adesso ci si deve spiegare, ci sono stati 3 errori arbitrali. Ma che gliene frega Padoan di 3 errori arbitrali al ministro dell'economia? No, ma io capisco che la vostra trasmissione deve suscitare, insomma. No, ma non è che deve suscitare. Superficialità, diciamo. La superficialità. Io sono superficiale. Sì, cioè, io sono superficiale, lei invece. Ma intanto, se mi fa spiegare, magari le racconto la cosa, perché Padoan c'entra e perché c'entra la Consob. Sì. Stiamo dicendo che c'è in corso un cambiamento epocale. Allora, ci piaccia o no? A me non piace del tutto, però c'è, e comporta investimenti, comporta posti di lavoro, certo, comporta somme economiche che si spostano, certo, investitori stranieri che guardano l'Italia, e allora servono regole diverse da quelle che ci abbiamo, che sono obsolete. No. Allora mi si deve spiegare. Ma questo è un dibattito che va avanti da anni. No, ma quale va? No, ho capito, se però le regole poi non ci stanno e gli adeguamenti non ci stanno. Miccoli, lei presenta questa interrogazione e presenta anche una interrogazione, non so come si chiama, un esposto alla Consob, semplicemente per un motivo, ma che è legittimo. Però lei lo deve esplicitare, perché è tifoso della Roma e si sente derubato. Questo diciamo è un altro aspetto. No, è l'unico aspetto. No, se lei mi chiama e mi chiama a rispondere del mio lavoro di parlamentare. Ma certo, è chiaro, ma in questo caso le due cose vanno insieme. Di calcio, no, ma le due cose vanno calcio, insieme. Rispondo sul calcio, no, e Miccoli. Sono tifoso della Roma. No, però non vanno insieme. Non vanno per niente insieme, sono interessi diversi. Ci sono gli interessi dei tifosi e dei sportivi che sono un conto. Poi c'è l'interesse generale, la legalità, la trasparenza, gli investimenti, la borsa, ci sono altre cose. Ma in questo caso, benissimo, ma lei perché pensa che tutto questo sia stato una roba, cioè che ieri sia stato violato qualcosa da questo punto di vista? Mi spiega, perché io continuo a insistere su un punto. Voglio sapere perché le tecnologie che si sono state introdotte nel tennis, il dibattito sulla moviola, va benissimo. Non la moviola, le tecnologie, le tecnologie. Oggi esistono, che si possono mettere con una spesa irrisoria e che possono consentire a noi. Cioè, secondo lei gli errori dell'arbitro di ieri hanno minato la credibilità del paese? Beh, ieri c'era una diretta mondiale, ormai Juventus e Roma è come Real Madrid e Barcellona, è come Manchester United. Dunque noi siamo un paese meno credibile per questo. Noi rischiamo di essere un hanno detto in questi giorni diciamo esperti. Di lavoro e economia. No, ma ha ragione Miccoli, scusa. Facciamo scappare gli imprenditori perché c'è l'articolo 18. Dunque Rocchi ha fatto gli imprenditori, questa secondo lei? Io penso, non Rocchi, l'immagine di un paese. Ma qualcuno è colpevole, chi è colpevole? Chi è colpevole secondo lei? Secondo me è la classe dirigente della Federcalcio di tutti questi anni. Vabbè, aggiungiamo una cosa, che questo paese ha avuto lo scandalo del calcio, Calciopoli, fino ragazzi, a poco tempo fa. Io voglio... Cioè questo è fermo, il paese di Calciopoli, ragazzi, ma di che parliamo? Io però voglio da Miccolo una cosa. Ma Calciopoli, sai cos'è o no? Ha presentato un'interrogazione in Parlamento su Juve-Roma. E ha fatto bene, è un interesse pubblico che deve tutelare, ma stiamo scherzando? L'esposto alla Consob! Ma ci sono milioni di euro che girano intorno al calcio, amico mio! Ma non serve a niente l'interrogazione parlamentare l'esposto alla Consob! Ma se i politici non si occupano di questo... Eccoci qui, l'uomo del giorno, colui che ha presentato un'interrogazione parlamentare dopo la sconfitta della Roma ieri, colui che ha presentato un esposto alla Consob dopo i fatti che si sono registrati ieri sera. Si chiama Marco Miccoli ed è un deputato del Partito Democratico. Ma scusi, ma Renzi è informato che un deputato del suo partito presenta interrogazioni parlamentari su una partita di pallone? È una partita di pallone. Oddio mio, ma questo è il paese dove c'è stato Calciopoli. Ma che c'entra? Ma ci sono 10 milioni di juventini in tutta Italia. Parli di una il calcio è un'industria. Ma dico, ma voi siete veramente matti? Io no. È un'industria. Ma ci si può discutere di quello che volete. Borsa. Qui c'è un signore, c'è un che io rispetto pubblico, che però non ha il coraggio di dire l'unica realtà, caro Miccoli, che è questa. Lei ieri sera era seduto non so dove, sul divano, a casa sua, a casa di amici eccetera, ovviamente le è venuto un diavolo per capello, si è incazzato come una bestia per quello che è successo, cosa assolutamente legittima, e siccome lei però per caso è anche deputato, stamattina si è svegliato e ha pensato, beh adesso presento un'interrogazione parlamentare, che è una cosa, io le dico, per carità, glielo dico veramente con tutto il rispetto, è una cosa ridicola. Vabbè, allora ci stanno, io ieri ho visto la partita come tutti, penso, non solo i tifosi della Roma, no, della tutti, Juve, anch'io l'ho vista italiana. Allo stadio, esatto, pur essendo visto tifoso della Lazio, si figura. Allora, però, se vogliamo parlare di Marco Miccoli, tifoso, o qualsiasi tifoso della Roma, ma è la stessa cosa, ma i ruoli si uniscono. Non è la stessa cosa. Ma come no? Non è la stessa cosa. Miccoli, lei presenta l'interrogazione, perché è tifoso della Roma, su, dai. Ma come no? Per amore del calcio, allora, per amore del calcio la presenta, dai. No, la presento perché appunto parlamentare che di fronte a quello che è accaduto ieri non dice nulla e poi si lascia accusare di non aver fatto nulla, come che deve dire? Ma si deve occupare di altre cose. Ma io me ne occupo di altre cose, lei non si preoccupi, segue i miei lavori in Parlamento. No, ma va bene, ma lei non deve presentare interrogazioni sul calcio. Ma giornalista, venga con me a Luna, domani in sala stampa. Ma io sono sicuro che lei... Io, tu sai quanti soldi ruotano attorno al calcio? Gli spiegheranno quello che faccio io in Parlamento. Ma io non dico che lei non fa niente in Parlamento. Non accetto lezioni. Non sto dicendo che lei non fa niente in Parlamento. Vi dovete rendere conto che c'è un'inadeguatezza. Vabbè, ma questo lo sappiamo, Questo lo sappiamo già, è un problema. A prescindere... Il parlamentare... Lo sappiamo a prescindere dalle interrogazioni, Miccoli, lo sappiamo a prescindere dalle sue interrogazioni, non si preoccupi. Però nessuno fa nulla. Ma che invece lei fa con l'interrogazione? Con la cosa... Beh, io faccio l'interrogazione e l'esposto alla Consob, dai, su. Intanto oggi tutta Italia ne parla rispetto a questo. Sì, se non ci fosse stato questo, no, sarebbe stato il solito, Miccoli, diciamo, discorso della tutta Italia la piglia per il culo, io non vorrei dire niente. Ma non è vero. Ma guardi, non è così, le posso assicurare che... Vedremo alla fine. Ma scusi, che cosa pensa di ottenere con la Consob? No, scusi, facendo un esposto alla Consob. Io penso di fare pressione su tutti gli organismi per fare che incidere sulle scelte della Federcalcio. Mettessero questi controlli tecnologici che si possono mettere con una settimana, con una spesa ridicola, questo è un altro discorso. E facciano i seri e quindi ci consentano di lei mi dica la verità, secondo lei la Juventus sono dei là, lei dovrebbe dire gli investitori e i lavoratori del mondo del calcio. Vabbè, lei in realtà pensa che la Juventus sia una squadra di ladri. Dica la verità. No, io penso che la Juventus non è una squadra di ladri. Penso che la Juventus ieri sia stata favorita dall'arbitraggio scandaloso che c'è stato. Poi tutti possono vedere le immagini e possono farsi un'idea di questo. E guarda, non è colpa mia se ogni volta che si parla di regolarità c'è di mezzo la Juventus. Non è colpa di Marco Miccoli. Il tema dunque, secondo lei, guarda che ci può essere anche che ci sono Calciopoli, non l'ho inventata io. Benissimo, dunque lei sta dicendo Miccoli, ogni volta che c'è di mezzo un'irregolarità c'è di mezzo la Juventus. Dunque la Juventus è al centro di tutte le malefatte. Non è colpa mia, che ci posso fare io? Non abbia il coraggio di dirlo, è al centro di tutte le malefatte del calcio italiano. Ma lei ha letto i giornali oggi? Sì, certo che l'ho letti. Non li ho scritti io gli articoli sui giornali, i fondi sul Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, su tutti i giornali e su tutte le cronache sportive. Ma non che li ha scritti Marco Miccoli. Ma si che vada a rileggere dire? Quei titoli, si vada a rileggere le dichiarazioni, si vada a guardare che le dichiarazioni di altri politici. Dichiarazioni di chi? Bisogna vedere di chi? Bisogna vedere di chi? Cosa? Di tutti, di tutto il mondo. Ma che tutto il mondo che... Ieri che ha reso ridicolo l'Italia è stato quell'arbitraggio e quella condotta arbitrale. Questa ha reso ridicolo l'Italia. Ma lei sta, cioè, in questo mondiale. Modo izza la violenza delle persone. No, ma posso... no, pianti, ma quale violenza? La violenza la izza chi fa quelle cose che, è stato, cioè, che sono state lei fatte. Lei è parlamentare. Ieri non c'ero io allo stadio, chi sputava e tirava le cose contro i giocatori della Roma. Ma dopo gli episodi non era Marco, ma che vuol Miccoli. Dire? Dai. A Roma succede di peggio. Le intemperanze in mezzo al campo sono successe per quello che ha scelto l'arbitro di fare. Va bene, non c'era Marco Miccoli, non dica sciocchezze. Ma Miccoli, faccia piacere. La Miccoli, violenza c'è da tanto tempo e nessuno la combatte Miccoli, lei ha presentato. Lei ha presentato. Anche a quelli che pensano come lei, ai giornalisti come lei che no, dice io penso, su no, chi io anima lo... la violenza. Io no, non faccio no, nessuna lei, violenza, lei, faccio il mio dovere. No, no, lei non anima, io sto dicendo. Lo faccia bene altrettanto. No, lei, non si preoccupi, Miccoli, il problema non è che. Guardi, il problema non è questo della violenza, il problema è che lei, presentando un'interrogazione che è chiaramente un'interrogazione da tifoso, perché è un'interrogazione da tifoso e lei non ha il coraggio tifoso, di ammetterlo, cosa fa il parlamentare roba? Tifoso, ha capito? Fa il parlamentare tifoso. Legittima, se la no, denga, è così. Questa è così. È una idea legittima, se la denga vedremo alla fine quello che succede. Lei fa il parlamentare tifoso, di più. La cosa peggiore che può succedere lei è fare il parlamentare. No, ma quello può darsi. Faccia quello, capisco. Ma che vuol dire? Lo spirito, ma lasci stare. Ma lei non è nemmeno. Scusi, ma lei non ha il coraggio di ammettere che fa il parlamentare tifoso? Ma perché non lo ammette? Io faccio il parlamentare, sono anche tifoso. No, Roma, lei ha... faccio in questo vabbè, caso è incredibile, faccio il è incredibile. No, guarda che ha ragione lui. Ha ragione Miccoli. Come sai, io non sono tifoso assolutamente, un po' dell'Inter, ah, ma dai, su, come ma sai all'acqua di, assolutamente all'acqua di rosa. Non si ma può non dire ha che uno ragione fa Miccoli, ci può da, essere da, addirittura da, il reato tifoso, di insider trading, visto che le società sono quotate in borsa. Ma di che parli? Ci sono milioni di euro in ballo dietro queste società, è un'industria come tutte le altre. Continuate a far finta di niente. Continuate a non dire nulla su questo. Comunque, guardi, che se ne devono occupare solo i tifosi o i giornalisti sportivi. Bravo, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Perché il teatro dell'opera sia la Juve no? È la politica che non è intervenuta. Ma io non ho capito perché sul teatro dell'opera si possono fare interrogazioni parlamentari e sulla vicenda di due società quotate in borsa su cui si può anche ipotizzare il reato di insider trading. Interrogazioni dettate dal tifo. Basta leggere quello. C'è interesse pubblico su queste Miccoli, cose. Miccoli, lei ha scritto mamma ieri mia. Io sono orgoglioso di essere un tifoso della Roma e di, non, zitto, e di non essere un tifoso della Juventus, certo, stasera più certo, che mai. È certo, veramente troppo. E c'è e altre cose. Lei non è. Ma non sono due persone, il tifoso e il parlamentare. Lei è la stessa persona, uguale, identica. Ho un'altra trasmissione che mi stanno chiamando. Scusi, la signora Agnelli, la moglie di Agnelli, ha detto che Totti deve andare via a giocare nel suo campionato. Ma lasciamo stare. No, voglio un commento. Agnelli, Emma Winter Agnelli. Sono anche rispettoso. In inglese l'ha scritto. I wish Totti will go and play in his home. Se poi dopo in italiano, Totti è un patrimonio che dovrebbe difendere anche la famiglia Agnelli. Mi auguro che Totti vada via e giochi nel suo campionato, così ha detto. E io mi auguro che invece campi fino a 100 anni e giochi a calcio fino a 100 anni dopo. Ma che vuol dire? Mica ha detto che non gioca, non deve giocare fino a 100 anni. Ciao. Stefano, provincia di Savona, vai. Allora, stammi a sentire, perché allora, primo, quello psicopatico di Razzi, sì, è un povero uomo, è Parenzo, lo difende, è andato, perché gli pagano la... Ragazzi, scusa, come lo difendo? Non ha capito niente lei, non difendo proprio assolutamente nessuno. Ma no, tu non hai nessuno. Capito un cazzo, stai calmo. Non difendo nessun capito. Razzi, caro se Stefano, che detto, ha bevuto un bicchierino di troppo da Savona. No, caro, sei tu che ti fai i bicchierini a quest'ora. Ti sei bevuto allora, un po' troppo a vovva a quest'ora, no, caro, mio. Tu hai detto, detto sei andato lì perché ti hanno pagato, ma che cazzo di albergo, ma è un povero uomo Rasi, ragazzi, c'è da mettere. Ma non gli va dietro Parenzo, però lei ha capito male. Tutta, ecco, almeno spiega. No, no, un ho capito altrimenti. Bene, ho no, capito lei non bene, ha capito perché d'accordo. Purtroppo ha bevuto un vermouth di troppo, no, e quindi no, non ha capito. No, caro, ha capito no, il contrario, Parenzo. Perché quando no, uno caro. Beve troppo e no, si confonde, caro, no, caro, si confondono no. I piani, capito? Quindi tu vedi una persona davanti. Chiaramente sei andato. Glielo puoi spiegare tu per cortesia. Ma lei ha bevuto, Stefano, lei ha bevuto. Se no diventa imbarazzante. No, Cruciani, caro, no, no caro. Senti la voce, secondo Miccoli, vergognoso. Vergognoso, Miccoli. Ah, questo è il PD. Tra l'altro qualcuno mi segnala. Tra l'altro qualcuno mi segnala. Perché il PD non ha fatto un esposto alla Consob in tempi utili per poi le indagini sul Monte dei Paschi di Siena? Certo, perché non si è occupato giusto, delle indagini su, invece di queste puttanate? Qualcuno dai, l'ha su. Fatto l'esposto alla Consob. Ma del PD? Giusto. Del PD? Non lo so se non l'hanno fatto sì, molto ma no, male, certo. Stefano. Se ne, molto male, dai, chiaro. Su, ma di che stiamo male, dai, male ragazzi. Che non l'abbiano fatto, ovvio. Dai su, ma non puoi difendere uno che presenta un'interrogazione parlamentare e un esposto alla Consob. Non sono della Roma, lo sai che non sono romanista. E quindi, appunto, a maggior ragione. Roma o Lazio o principio, è il dai. Principio che chi difende. C'era? Dov'è? E neanche capisce quello, hai capito? Con come? Il psicopatico lì. Niente, ha bevuto un altro goccio. C'è nemmeno che sono molto di più i movimenti delle scommesse clandestine che i movimenti di borsa. Ma non capisco cosa c'entra è questo. È una cosa inutile che ha fatto, no. Ed è inutile. L'unica cosa hai utile è lei si deve bere un altro bicchierino, amico mio. Dai, su, da così sentire, tu non capisci un cazzo, dai. Perché tu gli hai detto, vai, tu devi così. Mettere un guarda, po' di guarda. Fuoco, no? Allora gli vai a dire, sei andato lì, non ci sono i butta giù un altro goccetto, guarda. Ci sono, ma ragazzi, è un po' che buono che era. Hai capito? Su, un altro vermouth, un goccettino, basta. Uno sprizzetto. Ma perché? Basta. Non ho capito qual è il problema. Perché dici che sta bevendo questo qua? Ma perché è evidente, senti anche come parla. Non perché no, non capisce. Non cioè, io posso ma discutere con chiunque, modo. Ma quando uno non capisce quello che uno dice, dice il contrario. Guarda, allora, senti dimmi cosa hai detto. Ah, la dimmi bottiglia, guarda. Cosa hai detto, ragazzi? Cosa hai detto? E lui è andato lì perché? Dimmi. Continua a bere, guarda che è un dramma. Perché gli hanno offerto il soggiorno, quella. Ma ragazzi, il problema base è che quell'uomo lì è un povero uomo. Siamo ed d'accordo. È un senatore, cazzo. E allora, chiuso. No, ma allora cosa? Lo dico io che mi hai detto, magari è incredibile. Il consiglio: metti un po' di prosecco, un po' di. Puoi no, mettere un no, po' di martini, no, un po' di volendo Campari, no, scorzettina caro, di limone caro. Un po' di ghiaccio e vai non avanti caro. Così. Però devi salire non con caro. La gradazione, altrimenti non il segreto di, per chi beve è quello di salire con la gradazione. Quindi, se tu adesso, ad esempio, hai bevuto un cocktail devi martini, devi salire con la gradazione capito. Alcolica, altrimenti ti senti male. Fidati. Beviti una vodka. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Guarda la zanzara, incominciate a essere rincoglioniti. Ragazzi, ho letto durante questo weekend la confessione di Giannino, un'intervista di Giancarlo Perna per Il Giornale, caro Parenzo, no? Sì, ho inventato sì, sì, tutto anch'io. Sulle lauree per un complesso di inferiorità, dice Giannino. La gente cominciò ad elogiarmi, ad appiopparmi titoli, prima dottore, poi anche di più, li ho accettati per vanità. Poi ci ho messo del mio. Allora, io credo che di fronte ad una confessione così esplicita, ad una confessione così chiara, e lo dice chi in qualche modo ha tirato fuori all'epoca, più di un anno e mezzo fa ormai, delle notizie su Giannino, no? Ti ricordi? La questione del mago Zurri, eccetera, eccetera. Perché noi alla fine facciamo i giornalisti anche con gli amici. Giornalisti, insomma, per modo di dire. Comunque. Allora, di fronte alla confessione di Giannino, ho inventato tutto sulle lauree per un complesso di inferiorità. Di fronte a una cosa del genere, così chiara, così inequivocabile, peraltro l'aveva già detto in qualche modo, io voglio ricordare quello che è ancora, secondo me, il Giannino vincente. Il Giannino che, secondo me, avrebbe preso il 4% senza questo infortunio. Il Giannino mattatore, il Giannino che spinge alla ribellione contro questo Stato. Contro questo Stato che ci deruba ogni giorno con le tasse, ci deruba! È per questo che io, quando qualcuno prende la residenza all'estero, lo vorrei abbracciare fortissimo, perché fa bene. Bravo, bisogna bravo. Andare dove le tasse costano di meno, dove si paga meno allo Stato. Ed è giusto fare così. Fallo anche tu. No, bravo, potessi bravo. Lo farei. Se potessi lo farei. Se puoi potessi farlo, lo farei. Eh? Se puoi potessi, farlo. No, non lo posso fare. Guarda che la legge no, ti consente di farlo. No, non mi consente. Che poi vivo trasmetti qua. Da Monte Carlo, no, trasmetti da Liechtenstein. Magari no? Potessi farlo. Certo che puoi farlo. Magari se potessi farlo. Giannino lo ricordiamo, mica perché che è morto, è vivo e vegeto, però insomma nella giornata in cui confessa di aver inventato tutto sulle lauree per un complesso di inferiorità, beh, io lo ricordo in questo modo. 150. Sarei qua e mi sembra, Chiara, adesso purtroppo ti devo ringraziare perché siamo, mancano due secondi, non posso darvi appuntamento a Milano. Stato ladro! Stato ladro! Stato ladro! Beh, fu un momento epico, eh! Fu un momento epico! Un momento epico! È forte, Oscar, è forte. Max da Viterbo, Max. Marx? Sì. No, Max, Marx. Ah. Marx è un'altra cosa. Vai. No, sono Max, non Marx. Vai, vai, Max. Senta, io la chiamo da Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Voi conoscete Civita Castellana? Sì, io sì. È la patria, diciamo, dei cessi, dei sanitari. Ah. Ma è anche la patria di Alessandro Di Battista. Sì, sì, sì, adesso, certo. Il numero 3 del Movimento 5 Stelle. Sì, Beppe Grillo, no, numero 4. Beppe Grillo e Casaleggio sono due, poi c'è Di Maio e poi c'è Di Battista. Sì, più o meno. Di Maio e Di Battista sono alla pari, diciamo. Vabbè, allora? Niente, noi praticamente, io faccio parte del Meetup 5 Stelle Città Castellana, avevamo un gruppo forte. Città Castellana era diventato il primo partito, il Movimento 5 Stelle, perché Città Castellana era la roccaforte della sinistra. Adesso siamo al crollo? La Stalingrado Rossa la chiamava. Adesso? No, Alessandro Di Battista, dopo le votazioni, non è mai venuto nella sua città a darci manforte e a ringraziare i cittadini che hanno fatto diventare il Movimento 5 Stelle il primo partito. Una cosa vergognosa che gli stiamo dicendo. Vabbè, adesso non è mai venuto, non credo che sia, non sia mai andato a Civita Castellana da quando è stato eletto in Parlamento. Non mi sembra difficile. Non è mai venuto ufficialmente. Vabbè, poi... a ringraziare i cittadini. Noi saremo adesso al Circo Massimo a chiedere ad Alessandro Di Battista pubblicamente il motivo. Vabbè, e chiediamo se Parenzo può venire con noi per darci, diciamo, quella risonanza. Per far capire a tutti quando andate, quando... che giorno, che vabbè, giorno ma ragazzi, vai? Ma chi se ne frega? Aspetta un attimo, che giorno vai? Noi vorremmo andare venerdì perché la zanzara venerdì c'è. E se tu vieni possiamo fare una diretta dal Circo Massimo. Ma perché quanto dura sta kermesse del Circo essere, Massimo? Potrebbe essere, amico mio, quanto... potrebbe essere. Dura tre giorni, venerdì, sabato e domenica. Venerdì, sabato e domenica. Potrebbe vabbè, essere. Vedremo, Max, adesso non è. Sì. Non sì, potrebbe problema. Essere. Mi faccio dare il numero dal centralino e ti chiamo in questi giorni. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere, perché, caro Max. Perché siccome noi mettiamo sul web. Poi però scusami tanto, ma a me del fatto che Alessandro Di Battista, personalmente, del fatto che Alessandro Di Battista, secondo quello che a racconta questo Max, invece. Non si sia mai è presentato. È una grande storia. Ma non si sia mai per presentato. Me è un grande racconto. A Civita invece. Castellana. Adesso, vabbè, invece, siccome lì è dove sta. Il suo... francamente Luciani, non me ne frega un cazzo, adesso lo devo dire con tutta la sincerità possibile e immaginabile. Luciani, ma giustamente Città Castellana ha ma non per Civita Castellana, ma no, lo potrei dire anche di qualsiasi altra città. A 50 minuti da Roma, dove Di Battista gira ma tutta ci sarà l'Italia, andato qualche tutti. Volta a trovare il padre, no, scusi, ma Max. Il padre. Ma scusa, è il padre. Ma che doveva fare? Andare in città che fare? Indire, convocare la gente in piazza, che doveva fare? No, scusa Luciani, noi avevamo preparato tutto. Cioè lui quando va in un meetup, che cosa fa? Il meetup gli prepara la piazza? No, i meetup no, non mi parli del meetup. Purtroppo si chiamano così. Comunque, quando lui va in una città, i suoi attivisti gli preparano la piazza, parlano di Movimento 5 Stelle, fanno campagna elettorale. Lui ha girato tutta l'Italia e vabbè. A 50 minuti. Ok, abbiamo dato troppo spazio adesso a questa diatriba tra abitanti di Civita Castellana. Grazie. Catania, buonasera Marcello. Buonasera a tutti. Vai, dimmi. Lei è diventato uno dei miei compagni di viaggio dopo aver abbandonato il Caraldo Forbice su Radio 1. Le lo posso dire una cosa che commette. Capita talvolta che un genitore abbia in macchina un ragazzino, un bambino e purtroppo non posso ascoltare la sua trasmissione. Vabbè, succede nella vita. sono cose che accadono nella vita. Ma mi discrimina che purtroppo. Guardi, che stasera non abbiamo parlato né di sesso, né ci sono stati episodi particolari, eccetera. Abbiamo discusso anche in maniera molto forte. Certo, ogni tanto scappa qualche parolaccia, ma i bambini sono abituati. Guardi, che fra qualche anno, scusi, quanto ha suo figlio o sua figlia? 10 anni. Un genitore si impegna tanto purtroppo per cercare un comportamento educato. Ma che c'entra il comportamento educato? Questa è la radio, non è che deve educare la radio, è un programma radiofonico, non deve educare qualcuno, ha capito? No, si educa con la testimonianza, con l'esempio. Ma quale testimonianza? Io non voglio essere di esempio per nessuno, non voglio fare testimonianza, ognuno vive la vita che vuole senza essere testimonianza per nulla e per nessuno, ha capito? È molto scortese, è quella di sovrammodulare avendo lo switch del sovrammodulare microfono. No, amica mia, sovrammodulare Parenzo, intervieni tu, ti prego. No, ma sovrammodulare, ragione l'ascoltatore, ragione pure tu, ragione. Moralista appare, ha perfettamente ragione l'ascoltatore, ha ragione l'ascoltatore, bisogna educare i toni forti, i figli in macchina. Educare per niente, io non educo nessuno, quello c'è. David? Sì, ecco, bravo. Mi dispiacerebbe andare a fare in culo. Oh, sempre dopo di te. No, ma abbiamo con noi però un personaggio che è su tutti i siti italiani, forse anche mondiali, no scherzo, italiani. Si chiama Giampiero Belotti ed è un ragazzo di quanti anni, Belotti? Buonasera. Buonasera, ho 29 anni. 29 anni, possiamo definirla un antisentinella in piedi. Si è vestito in che città, simpatico. Belotti? Bergamo. A Bergamo, mentre no. queste sentinelle in piedi si riunivano. Da grande dittatore di Charlie Chaplin, è stato scambiato per una specie di pazzo nazista e fermato dalla polizia o dai carabinieri. Che le è successo poi concretamente, Belotti? Beh, è successo che al momento il mio dossier lo sta avvaliando il magistrato per scoprire se ci sono elementi per procedere con alcune eventuali accuse. Quali accuse, scusi, Belotti? I poliziotti con cui ho parlato in via ufficiosa parlavano che, cioè, mi hanno riferito che l'unica accusa possibile appunto era apologia di fascismo. Scusi, però lei in realtà era lì per prendere in giro le sentinelle in piedi e per prendere in giro anche, se vogliamo, l'oscurantismo che secondo lei viene fuori da queste sentinelle in piedi. Anche per prendere in giro tutti i movimenti politici che si affiancano alle sentinelle in piedi, che le sostengono. Chi sarebbero? Che appunto sono movimenti neofascisti. Addirittura, cioè? Forza Nuova, Casa Pound. Cioè, lei voleva prendere in giro tutti questi movimenti qui che affiancano o che sono d'accordo con le tesi delle sentinelle in piedi. Era presente Forza Nuova nella manifestazione delle sentinelle a Bergamo ieri, quindi. No, tra l'altro, Belotti, no, ma guardi, c'era una manifestazione, ma le sentinelle non è vero, piedi, Belotti ha fatto una cosa molto divertente, sì, aspetta, e ironica. Ma io sicuramente. Primo, secondo, cosa che non sai, nella divisa che lui, perché ho letto la cosa, nella divisa che lui ha indossato, ha fatto una citazione del film di Charlie Chaplin, Il grande dittatore. Assolutamente. Per cui ha messo due come hanno nel film, quindi era una cosa visibilmente da presa in giro rispetto ai nazisti veri che esistono. Ma io sono sicuro che lui voleva prendere in giro e che i poliziotti, quando lo capiranno, quando le forze dell'ordine lo capiranno, sicuramente basta vedere la divisa, non procederanno, caro Belotti, lei lo sa bene che non procederanno, nessuno la accuserà di apologia, o sbaglio? Oppure lei pensa davvero di essere accusato di apologia di fascismo? Guardi, perché sarebbe estremamente ironico, ma credo che se davvero succedesse potrei correre da quelle che appunto erano ieri in piazza di Forza Nuova e guardate falliti come si fa a ricevere il dono dell'accusa di apologia di fascismo. No, perché scusa, secondo lei queste sentinelle in piedi sono fascisti? Io non credo che siano tutti fascisti, credo che quello che le idee che portano avanti siano fasciste. Vabbè, a Forza Nuova si può discutere, anzi lo dicono apertamente in alcuni casi, di essere fascisti, però questo movimento delle sentinelle in piedi non è che sono legati a Forza Nuova o a qualche partito politico, sono delle persone che pensano, secondo me, delle cose terrificanti, alcuni di questi che ho sentito, ma che hanno tutto il diritto di manifestare lì, o no? Perché hanno tutto il diritto, scusi? Ma certo, perché scusi, secondo lei non hanno diritto di manifestare? Io affermo l'idea che la propria libertà finisse dove comincia l'altrui libertà. Amica, vogliono mica vogliono scusi, posso fare una domanda? Sì, mi dica. Se se lei vedesse delle persone in piazza a manifestare, sì, perché le persone di colore non ricevono lo stesso trattamento che ricevono le persone di razza bianca, lei non sentirebbe un pruritino in fondo alla nuca, qualcosa che no, le dice, scusi, però queste persone qua sono semplicemente contro il matrimonio omosessuale e contro, sì, e contro le adozioni gay. Ora io sono a favore sia del matrimonio omosessuale sia delle adozioni gay, ma io penso che questi signori delle sentinelle in piedi hanno tutto il diritto di andare in piazza in maniera pacifica, com'è peraltro, perché vanno in piazza in maniera pacifica e anche in silenzio per dire quello che pensano. No, in silenzio, invece lei no, pensa, no. Scusi Belotti, io probabilmente noi siamo d'accordo di fondo sul fatto che ci vuole il matrimonio gay eccetera eccetera, però lei non può dire che questi qua non possono manifestare. Certo che non dovrebbero, in un paese. Ma come non dovrebbero manifestare? Ma scusi, ma perché non dovrebbero manifestare e dire quello che pensano? Perché lei pensa che sono dei movimenti che vogliono limitare i diritti? No, ascolti, quello che le sto dicendo semplicemente è che io posso manifestare su qualcosa. Però alzi la voce, sennò capiamo poco, Belotti. Scusi, quello che sto dicendo è che io posso manifestare, ma su qualcosa che va a interloquire sui miei interessi, se voglio implementarli, se voglio allargare, non posso mettere il becco in una cosa che non... No, però scusi, al di là del fatto che questi qua possono perché non io mi voglio soffermare su questa cosa qua, secondo lei non devono manifestare questi qua? Allora, nei giorni scorsi il ministro della salute Lorenzini, non ce l'ho per forza con la Lorenzini, vi assicuro, non ho nessun tipo di pregiudizio, però a me alcune cose mi fanno impazzire. Allora, cosa è successo? Che il ministro della sanità Lorenzini ha presentato il piano nazionale, vi giuro, il piano nazionale della fertilità. Cioè l'istituzione, della salute, l'istituzione di una specie di commissione, di una specie è un di... ministro della salute, sì, sì, sì, il piano nazionale della fertilità, ma chi lo deve fare? Allora una specie di studio, una specie di studio, altri soldi, burocrati, commissioni, tale, ci sono una marea di inutili commissioni. Adesso viene creata una commissione di studio che ci deve spiegare i motivi già chiari a tutti. Beh, i motivi per cui in Italia si fanno pochi figli. Sentitela Lorenzini, vi prego, sentitela. Burocrati, verranno messi dentro burocrati, studiosi, certamente verrà creata una commissione in più, speriamo a costo zero, speriamo. Accanto alla natalità c'è il tema della fertilità, quindi con questo piano nazionale sulla fertilità, sì, con questo gruppo di lavoro di esperti, noi cercheremo di lavorare su delle azioni mirate per rendere edotti i giovani, i giovanissimi, azioni mirate, le coppie, sì, diciamo in un'età più matura, del potenziale di fertilità, come preservarla e come anche programmare, sì, più liberamente la propria vita. È giusto. C'è la pianificazione dello Stato, non si deve intromettere in questa cosa lo Stato, lo Stato, ma lo Stato, scusami, non si deve intromettere. È una questione di salute, la non è fertilità, ma sai quante migliaia di persone hanno difficoltà ad avere figli non in ne Italia? Non posso più il piano nazionale della fertilità, ma non se non più si occupa di questo, il Ministero della Salute, di cosa si deve occupare? Posso più, non ma non posso ne posso più di che cosa, non ne posso ma più. Ma abbiamo con noi Gianpietro Belotti, anti-sentinella in piedi, lo chiamerò così, uno che ha manifestato contro le sentinelle in piedi, vestito da grande dittatore di Charlie Chaplin, fermato dalla polizia, potrebbe essere denunciato per apologia del fascismo. Caro Belotti, però ti voglio, diamoci del tu, tanto sei giovane, c'hai 29 anni, io sono, ho 20 anni più di te, però ti voglio dire una cosa: se tu dici che questi signori, le sentinelle in piedi, che ogni tanto tirano fuori delle frasi terrificanti sui gay eccetera, per carità, non devono manifestare, però lasciatelo dire, potresti veramente essere accusato di fascismo. Il vero fascista rischi di essere tu, Belotti, diciamola tutta. Ciao, certo. O no? Non lo so, non credo sinceramente. No, io non credo questo. Non credo. Perché ti manda i matti? Perché no, risponde ma in modo assolutamente non mi manda i matti. Con no, questa pacatezza. Quindi secondo lei la libertà è poter, sì, manifestare liberamente su, sì, qualsiasi argomento, su qualsiasi cosa o contro contro qualsiasi cosa. Non ci sono limiti. No, ma certo che ci sono limiti, che sono quelli della legge. Se uno manifesta e dice i forni crematori vanno riaperti, scusa, probabilmente passa i guai. Questi qua manifestano. Non parla di uguaglianza di tutti i cittadini. Sì, ma e allora? E allora che cosa vuol dire? Che sono obbligatorie le nozze gay? Sono obbligatorie le nozze gay secondo lei? Questo no. Scusi, ma secondo lei... No, ma mi risponda su questo. Sono obbligatorie le nozze gay? Quando si parla di libertà per tutti i cittadini. Ma non, lei confonde la libertà con i diritti. Sono due cose diverse. Cioè l'Italia... La libertà con? No, con la concessione con del matrimonio gay, eccetera, eccetera. Sì. Ma che dell'uomo, Belotti, ma non è un diritto dell'uomo quello di sposarsi tra due omosessuali? Non dica stupida, io sono favorevole alle nozze gay, ma non perché sono un diritto dell'uomo. Su, dai, Belotti, dai. Hai ragione, forse mi confondo con Peppi, dove parlano del perseguire la propria felicità o cose del genere. Che c'entra perseguire la propria felicità con questo? No, scusa. Nulla. No, c'entra, mi spieghi bene. Perché mi piace come parla, perché no, non sono d'accordo su questa cosa. Le manifestazioni vanno fatte sempre tranne quelle che incitano la violenza. No, questo ovviamente è veramente fondamentale, questa cosa qua. Cioè, Belotti, lei manifesta in modo singolare, ha manifestato in modo singolare, esatto. In modo singolare, perché questi non manifestino, in sostanza? Io ho manifestato unicamente, io non ho manifestato perché quelli non manifestano. Beh, però dice che non hanno diritto di manifestare. Una persona non va da sola dove c'è un assemblamento di persone per impedire la manifestazione. No, quello no, certo, non fisicamente. Assolutamente, ma neanche in nessun altro però modo. Però lei dice che questi qua delle sentinelle in piedi non dovrebbero manifestare. Ero in silenzio ed ero lì con loro a leggere. Assolutamente. Come non è violento lei, non è violento. Impedire. Perfetto. Quello che io sto semplicemente dicendo, quello che volevo fare, a parte che non era assolutamente mia intenzione, cioè pure essere qui in questo momento, quello che io pensavo sarebbe successo era mi chiedono di allontanarsi e io mi allontano ed è finita lì. Quello che sinceramente dovevo fare era fare un'azione, qualcosa che dopo mesi e mesi che io leggevo su articoli di giornale di questa sentinella in piedi, incazzandomi nel mio privato, certo. Dovevo fare qualcosa che sinceramente mi permettesse di continuare a guardarmi una e di dire ho fatto qualcosa io perlomeno. Vabbè, ma quello d'accordo, lei ho manifestato il mio essere contro. Sì, però perché lei, dunque, secondo lei questi qua delle sentinelle in piedi sono dei pericolosi nazistoidi, perché lei si è vestito in un certo modo per dare l'impressione che questi qua in realtà sono dei nazistoidi, secondo lei? Posso raccontarle una cosa che mi dica. Va bene, ieri in divisa da nazista dell'Illinois avevo la taschina della camicia piena di triangoli ritagliati di cartoncini rosa. Sì. Era mia intenzione distribuirli, purtroppo l'intervento della Digos mi ha impedito di fare questa cosa. E allora? Sono stati presi quelli e messi anche quelli a verbale come, vabbè, ma quelle sono stupidaggini. Bene, quei triangolini rosa erano nient'altro che il simbolo del triangolo di stoffa rosa che veniva cucito sulle divise degli internati dei lager nazisti, esatto, condannati a morte per la loro omosessualità. E dunque? Ma lei è omosessuale? A lei cosa interessa? Ma io dopo un quarto d'ora glielo sto chiedendo, non è che io ho chiesto subito. Lei si vergogna di dirlo? No, in realtà me l'avete chiesto subito, oggi pomeriggio. Vabbè, quello quando l'abbiamo contattata, adesso quello che conta è la diretta. Sì, però. La prima telefonata, la prima domanda è stata, ma lei è omosessuale? Non era la prima domanda, dopo. Mia sorella e io eravamo qua che ci guardavamo. Sì, ma non è importante, non è importante, però lei può rispondere sì o no, può rispondere sì o no tranquillamente. Va bene, sai come le rispondo? Ha presente quando Albert Einstein è arrivato negli Stati Uniti che le hanno chiesto, glielo devo raccontare io questo episodio singolare. Razza umana, sì. Tutto. Oh, davvero, perfetto, vedo che è colto. Quindi cosa no, quello sono io però, quello colto. Appunto, le sto dicendo, è colto. Le devo dare informazioni su cosa? No, ma scusi, siccome lei, siccome stiamo parlando, siccome non c'entra niente la razza umana. Vuole sapere se sono sieropositivo o meno. No, quella è un'informazione che riguarda assolutamente la sua sfera, diciamo, sanitaria. Cioè. No, siccome stiamo parlando di questo, non è che glielo chiedo così a buffo. Cioè, glielo chiedo perché stiamo parlando di queste cose qui. Lei ha manifestato contro le sentinelle in piedi? Io ho manifestato. Ma se non vuole rispondere non c'è problema, Cioè, non è che è un interrogatorio della polizia o della Digos questa qua. Io le ho fatto una domanda, lei dice non capisco la domanda e non le voglio rispondere e poi passiamo avanti, non è un problema. Mi stupisce il fatto che lei non voglia rispondere. È la seconda volta che quella non c'entra niente, quella è una domanda che l'abbiamo fatto quando l'abbiamo contattata. Questa qua è la diretta, è l'unica cosa che. Ma non so se sia fondamentale o no. Non è quello il punto. Avete un questionario da compilare dove non c'è nessun questionario. Non c'è nessuno. No, perché non schediamo nessuno noi. È lei che scheda le altre, quelli là e li classifica come persone che dicono delle cose che non stanno, che sono antidemocratiche, secondo lei. Invece quelle persone lì che pensano, secondo me, delle cose orribili. vanno fatte manifestare perché venga fuori in alcuni casi, perché io non sono completamente d'accordo con Belotti, ma ti sta ponendo un problema. E qual è il problema? Che è questo: fino a che punto uno può liberamente manifestare anche cose che portano all'odio? Questo è il tema di fondo. Cioè, alcune persone non è che manifestano, dicono perché il questi tema dell'incitamento all'odio, ma questi non stanno facendo niente. È un tema niente, che Belotti non te lo sta dicendo esplicitamente, ma il senso del suo ragionamento mi pare questo e io lo condivido. Non è che si dice il diritto di manifestare per chiunque, perché siccome tu hai detto questo è il punto di fondo e Belotti su questo ha ragione. Che mi ricordo di qualche anno, fu successo qualche anno sì, fa. Sì, però parli più con la voce più alta, se non si sente la mazza. Qualche anno fa stavo passando per caso davanti alla TV, mi sono fermato, c'era il Maurizio Costanzo Show in onda e aveva invitato alcuni neonazisti di Roma a dialogare. Sul palco con loro c'era Lévy, come non mi ricordo come fa di nome, il filosofo francese. Sì, Bernard Lévy. Grazie mille. Lui, praticamente a un certo punto Lévy ha preso parola e ha detto: io non posso continuare a fare questa conversazione perché queste persone qui hanno certe idee e hanno bastoni e spranghe perché hanno quelle idee. Quelle idee, parole di Bernard Lévy, sono state già giudicate dalla storia, sono state trovate mancanti e non devono essere riammesse sul tavolo del dialogo civile moderno. Vabbè, secondo lei se le sentinelle in piedi sono antidemocratiche e sono fuori dal sono incivili? No, lo dica apertamente. Allora, io ho detto semplicemente che quello che stavo dicendo. Ma poi fa il moderato, è una cosa incredibile, che poi non ha il diritto di andare fino in fondo, non ha la forza di andare fino in fondo, però. Non perché nei lager nazisti gli omosessuali venivano internati in quanto omosessuali. E allora? Oggi questa gente si prepara, scende in piazza per limitare le libertà personali. No, per esprimere le proprie idee, le proprie idee che non limitano nessuna libertà, perché uno se è a favore, se è contro il matrimonio gay ed è contro l'adozione, non limita nessuna libertà. Quindi se io per esempio fossi favorevole a un il fatto che il salario minimo di una donna deve essere inferiore a quello di un uomo, io dovrei essere libero di scendere in piazza e manifestare. Non è la stessa cosa, lei lo sa benissimo. Mi spieghi perché? Perché no? Perché è una cosa completamente diversa, ha capito? Uh-huh. Una cosa totalmente diversa. Il matrimonio gay, e io voglio il matrimonio gay, non è un diritto dell'uomo. Sì, perché? Diritto dell'uomo. È una cosa a cui la società arriverà. Dovrebbe essere un diritto della donna guadagnare come l'uomo, allora, secondo lei? Vabbè, ma non è così, non sono due cose, non è la stessa cosa. Dai, io sono molto a favore, io sono a favore del matrimonio gay, ma non lo voglio considerare, non è possibile considerarlo un diritto naturale, ha capito? Già, è proprio così, Belotti. Mi dispiace, ma è così. Se lei pensa il contrario, più di me, 20. No, ma non è questione di avere 20 o non 20. Io sono favorevole al matrimonio gay, sono favorevole all'adozione. No, sto dicendo, per fortuna che il mondo non è. Per fortuna che il mondo. Ha la mentalità come la sua. E per fortuna che il mondo non è guidato da lei che non vuole fare manifestare le persone. Guardi, per fortuna che il mondo non è guidato da lei che non vuole fare manifestare le persone. Certo, invece se fosse per lei, quelli vestiti come me ieri in piazza sarebbero lì a manifestare tutti i giorni, però non quei simboli simpatici. Ma che c'entra? Perché mi sta dando del fascista. Mi sta dando c'è il diritto. Io sono a favore del fatto che, per esempio, uno come Irving potesse venire in Italia, uno che è un revisionista, a dire quello che pensa. È a favore delle manifestazioni di Forza Nuova? Assolutamente sì. Sì, perfetto. Sì. Ma immagino che se lei fosse in Germania e vedesse una manifestazione di neonazisti, direbbe: oh, è giusto. Guardi, dipende dalle manifestazioni. Infatti non possono manifestare. Vietato in Germania, pensi un po'. Allora, infatti in Germania è vietato. E allora qual è il problema? Perché hanno fatto i conti con la loro storia ai tedeschi. Ma non c'entra niente. Qual è il problema? Vabbè. Belotti, i ragazzi lei è il fascista delle scuole perché sono discriminati in quanto omosessuali. Non c'è lei è più fascista di quelli di Forza Nuova. Non è un fascista. Lei è più fascista di quelli di Forza Nuova. Può esagerare su alcune cose, ma di fondo ha ragione. È più fascista di quelli di Forza Nuova, no, ma è sicuramente più fascista di me, sicuro che non lo sono. Più fascista di me, sicuro, al 100%. Guardi, le dicevo prima dell'esposizione mediatica che ha avuto questa cosa, che sinceramente non volevo, non cercavo nulla. No, ma chi l'ha detto? Ho ricevuto un sacco di commenti, ho riso un sacco. Sei accusato di apologia di cosplay o apologia di Blues Brothers? Sì. E mi è arrivato invece oggi questo commento di un ragazzo. Sì. È lungo, le leggo giusto le prime righe. Grazie, Mi permette? Sì, certo, com'è. Che gentilissimo, mi piace. Grazie però lui. Perché mette allora, anche tranquillità. Il commento dice di, diciamo, Alessandro. Veloce però. 7 mesi fa il mio ragazzo si è tolto la vita a causa del suo orientamento sessuale non accettato dai genitori. Sì. E ancora dopo mesi non riesco a capire il motivo. Perché delle persone detestino tanti propri simili solamente a causa di un orientamento non eterosessuale. Gradirei fisicamente e o sentimentalmente un individuo dello stesso sesso è una condizione umana che non lede alcun diritto e non va incontro nessuno. Sì. L'odio, la discriminazione. Certo. Scusi. L'intolleranza e la violenza invece sì. Eppure queste sono mascherate dietro un incancellabile diritto di opinione. E cavalcando questa opinione si pensa di essere dalla parte giusta. Io sono a favore di quello che scrive questo qua. Sono non la posso fare concludere perché no, assolutamente. Guarda, però sono a favore di quello che scrive questo, ma non c'entra niente con quello che ha detto lei, che non vuole far manifestare le persone. Grazie, grazie. Ambrogio da Lodi, veloce. Ambrogio. Sì, sono qua, pronto, mi sente? Dica. Allora, quello che ho sentito adesso per radio giunge a proposito per... Veloce però, Ambrogio, su, dai, forza. Allora, dal punto di vista laico, l'introduzione ai matrimoni gay, dal mio punto di vista è una grossissima confusione, è una posizione assolutamente arretrata. Vabbè, Ambrogio, troppo tempo. Moreno, provincia di Verona, domani, dai. Moreno, provincia di Verona, dai. Buonasera Cucciari, buonasera Parenzo, io ne ho pieni coglioni di pagare gente come Mico, che a posto di pensare a far andare bene l'Italia, pensa al calcio, pensa a tutte quelle stronzate lì. Salve, buonasera. Ciao, a domani 18.30. Sì, ma no, da manicomio siete voi e mi ci mandate pure al manicomio oltretutto. Allora, ma io no, da manicomio è lei e tutta quanta la squadra che fa capo a lei. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Che orrore. Radio 24. La passione si sente.